fuggite, fuggite! E voi, notturni orrori, abbandonate il suol, abbandonate il suol, dal ciel sparite, dal ciel sparite! sordi a miei lamenti si ristringon più dense, a ciò privo di speme più gravi riconosca i miei tormenti. Cresce il mio ruore tenebroso, il cielo pur che volto di tani ciechi, sino le stelle celar la luce, quasi fulgor di quelle tema che nel mio cuore fossino partorir ora di speme. Ma dal stigia rete con voi che pur gli orrori che non saran bastanti al mio bel sol lucente,